ave prima, piano piano, plin plin plin, ghiaccia goccia goccia l'acqua, plin plin plin, tuona il buio, un mugugno, un fulmine, vola il vento, soffia sulle nuvole, ci prende un brivido, un tremore. Scroscia, scende giù, giù, giù, l'erba, i monti non si vedono più, più, più, solo i pesci sgusciano, fanno splash, splash, splash, l'acqua forse non si fermerà.